La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati a tutti, è scoccata l'ora del cinema qui a Radio 24, La Rosa Purpurea, per parlare delle novità in sala, di tutto quello che arriva anche in videoteca, di tutto il cinema che c'è, come facciamo sempre qui dalla Rosa Purpurea. Io sono Franco D'Assisi e cominciamo subito a entrare nel vivo dei temi di questa puntata con i nostri titoli di testa. Un cattivissimo che più buono non si può. Naso aquilino, ghigno malefico. Il perfido Gru è il protagonista di Cattivissimo Me, esilarante animazione in 3D sulla trasformazione di un uomo grazie al ruolo di tre tostissime orfanelle. Un uomo senza qualità. È quello interpretato da Tony Servillo in Gorbaciov di Stefano Incerti, un ragioniere d'azzardo che ruba alle casse della prigione per giocarsi tutto al tavolo da poker, finché l'amore non lo fa deragliare dal suo percorso. Ha incantato Tim Burton, che gli ha assegnato la Palma d'Oro al Festival di Cannes. È lo zio Bommi, che si ricorda delle vite precedenti, il film che consacra il thailandese a Pichat Pong Verasethakul, fra i nuovi talenti del cinema internazionale. Edward Norton e Robert De Niro di nuovo insieme nel thriller psicologico Stone, in uscita nei cinema americani. Al loro fianco la bellissima Milla Jovovich. Ne parliamo nella rubrica Trailer USA. E allora cominciamo subito sulle note della colonna sonora di Cattivissimo Me a parlare delle novità in sala. Vogliamo cominciare proprio con questo film d'animazione che ha subito avuto un grosso successo fra chi ha visto, lo ha visto nelle numerose anteprime che sono state organizzate anche recentemente nelle città italiane, proprio per testare un pochino la risposta del pubblico. Un film che non si rivolge solo ai bambini, che assolutamente ne vanno matti, ma che prende anche una fascia adulta, come ormai da Shrek in poi possiamo dire è uso fare, cioè quello di cercare di mettere insieme contenuti e anche stili nell'animazione per tutta la famiglia. La storia è quella di un cattivissimo, appunto, il cattivissimo me del titolo, che si redime, un personaggio lugubre, vestito di nero, grande, grosso, con il naso aquilino, che pensa di essere il più cattivo del mondo, ma a un certo punto scopre invece che non è così. Scopre che non è così perché quando lui sta progettando un furto veramente enorme, e adesso spiegheremo di cosa si tratta, scopre che qualcuno invece ha rubato la piramide di Cheope in Egitto, ecco, e l'ha sostituita con una piramide gonfiabile, tra l'altro. Allora, proprio dalle indagini di questa prima, di questo primo furto nasce il film, perché Gru, come si chiama appunto il cattivissimo che poi diventerà buonissimo, scopre che di avere un avversario, di avere qualcuno che potrebbe fargli le scarpe, diventare lui il più cattivo di tutti, ed è il viziatissimo Vector. È lui che ha rubato la piramide ed è da lui, contro di lui, che si scatena la furia di Gru. Sentiamo una prima clip del film. È adorabile! Ti abbiamo ingaggiato! Sei nel nostro mirino, ormai sei fritto! Cosa? Ehi, Gru! Prova questo se non ti sta stretto! Che strano! Che cosa succede? Oh! Va a venire la claustrofobia! È piccolo, troppo piccolo per me. Oh, io lo odio quello. E come avete sentito, è già in furia la battaglia fra Gru e Vector. Cosa li fa diventare diversi e soprattutto uno simpatico e l'altro no? Che Gru è un po', insomma, ruffone, è soprattutto molto artigianale nelle sue trovate, i suoi aerei che costruisce, i razzi, eccetera, sono veramente fatti con materiali di risulta. E soprattutto si circonda di una serie di collaboratori, potremmo dire, fra virgolette, piuttosto particolari, fra i quali sicuramente La cosa vincente di questo film sono i Minion, che sono degli esseri piccoli, gialli, cilindrici, molto simpatici, dotati di uno o due occhi, a seconda, ce ne sono un po' di tutti e due i tipi, che sono sostanzialmente l'esercito, gli operai di questa factory del cattivissimo Gru. Factory alla cui porta un giorno vengono a bussare tre tostissime orfanelle di un vicino orfanotrofio, Margo, Edith e Agnes, che sostanzialmente riescono a entrare nella sua vita. Lui chiaramente all'inizio è refrattario, poi accetta un po' di averle fra i piedi e quasi quasi nel suo percorso di diventarne un po' a un certo punto un possibile padre, un possibile papà. E allora dicevamo l'artigianalità di Gru contro invece l'ipertecnologia di Vector, che invece è figlio di papà e quindi ha molti soldi da spendere e fa le sue malefatte nel modo più tecnologico, appunto. Il nuovo oggetto del desiderio dei due è la Luna, niente meno, dicevamo, un grande furto: rubare la Luna grazie a un restringitore di particelle che permetta di fare della Luna una sorta di arancia, di portarsela via e poi di avere in mano questo bene, diciamo, di inestimabile valore. Però ovviamente le cose non andranno come tutti auspicano. Sentiamo. Ci stiamo lavorando da un po' di tempo. È un siero antigravità. Mi sono dimenticato di chiudere. Non gli succederà niente, tranquillo. E l'effetto svanisce? Finora... No, non svanisce. E qui, naturalmente, c'è la nuova arma che hai ordinato. No. Io ho detto fucile a freccette, non a... Ok. Oh, sì. Infatti, mi chiedevo in quali circostanze l'avremmo potuto usare. Avete sentito, insomma, si va anche sul biologico. Immaginate in questa scena questi cilindri gialli che volano e rimangono come dei palloncini sospesi nell'aria, perché questo fluido antigravità in realtà non ha trovato ancora il suo antidoto e quindi fa circolare liberi nell'aria questi esseri. Insomma, un film d'animazione, come spesso accade, dicevo, negli ultimi tempi, che mira a un paio di pubblici diversi. In questo caso forse raggiunge più direttamente i bambini, anche se non mancano le citazioni. La storia, la redenzione del cattivo che diventa buono, non è certo una novità, dai tempi di Dickens, da Racconto di Natale, dallo stesso Shrek di cui abbiamo parlato, insomma, non sono pochi sicuramente, oppure lo Scrooge, appunto, di Dickens, dicevamo, non sono pochi i casi, gli esempi precedenti di questo tipo, però sicuramente il film è fatto con grande gusto, con pochissima retorica. Grazie al cielo le tre orfanelle non dicono mai papà al vecchio Gru, e questa è sicuramente un valore aggiunto, e risulta sicuramente molto molto godibile. Ora cambiamo decisamente genere e argomento, ci concentriamo su un film fra virgolette d'autore, un film tra l'altro che lancia, forse in maniera definitiva consacra, un autore. L'autore in questione si chiama, segnatevelo bene, farete fatica, Apichatpong Verasethakul, che è una cosa, un cognome quasi impronunciabile, di questo regista thailandese che aveva già ben impressionato in precedenza con altri film che erano stati mostrati nei festival più importanti, anche al Festival di Venezia, ma che quest'anno ha portato a casa la Palma d'Oro a Cannes con un film dal titolo altrettanto lungo, ovvero Lo zio Bummi che si ricorda le vite precedenti. Già capite dal titolo che c'è qualcosa di onirico, anzi di soprannaturale, se vogliamo, ma tutto in una salsa molto delicata e anche dal sapore di commedia. Noi abbiamo mandato in avanscoperta a vedere questo film la nostra Chiara Pizzimenti. Lo zio Bummi, colpito da una grave insufficienza renale, ormai vicino alla fine della sua esistenza, si fa portare via dall'ospedale. Vuole passare gli ultimi giorni nei luoghi che sono stati importanti nella sua ultima vita, la campagna nel nord-est della Thailandia, e vuole essere vicino alle persone care. Ad aspettarlo ci sono i vivi, la cognata, i lavoranti e i morti, a partire dalla moglie che gli fa visita. Una volta che anch'io sarò morto, dove sarà che il mio spirito dovrà andare a cercarti? Forse in paradiso? Il paradiso è sopravvalutato. I fantasmi non sono legati ai luoghi, sono legati alle persone. La donna, morta da 20 anni, comparirà all'improvviso al tavolo, uno spirito il cui arrivo non sconvolge i presenti, come non sembra turbarli l'arrivo del figlio del protagonista, scomparso da anni, che ritorna come uomo scimmia. È passato, per amore, nel mondo degli animali. Ci sono molte creature che girano qui intorno. Spiriti. Fantasmi che convivono con naturalezza con chi è ancora in vita, come strettissimo è il legame fra gli uomini, gli animali e la terra, e attraverso la giungla che lo spirito della moglie guiderà Bonmi a morire in una grotta che lui ricorda è stato il luogo di una delle sue nascite. Non è difficile capire come mai il film del thailandese Apichatpong Verasethakul, già autore di Tropical Malady, sia piaciuto a Tim Burton, presidente della giuria all'ultimo Festival di Cannes che gli ha attribuito la Palma d'Oro. Fantasia, compresa la favola della principessa amata da un soldato trasformato in pesce gatto che si mescola a realtà, visioni che seguono visioni, magia unita a vita quotidiana, in alcuni momenti anche mistero e denuncia quando il protagonista racconta il futuro, fatto di foto, di immagini fisse, di soldati. È sottinteso il pensiero filosofico orientale, la reincarnazione, si mostra invece il percorso di Bonmi fra la giungla e la campagna, fra una vita e l'altra, inquadrature lunghe e semplici, un flusso fra sogni e realtà che è però difficile da metabolizzare, ermetico per lo spettatore, a causa della complessità dei riferimenti e della lentezza dell'azione. Forse ci si dovrebbe abbandonare al sogno, è però molto difficile riuscirci. Forse non l'ho capito, troppi simboli, troppo lento, no, non è il mio genere. Troppo lento e quasi incomprensibile, onestamente. Ma io non lo so, mi addormentavo e mi risvegliavo, pensavo che potevo andare in bagno e tornare e rivedere la stessa scena, però a tratti era sorprendente, assolutamente. Sì, sì, molto. È lento ma mi ha lasciato delle buone impressioni. Sì, sì, molto suggestivo. L'ho trovato inquietante, cioè indubbiamente rappresenta delle culture che non sono, diciamo, quelle che abitualmente viviamo. Però l'ho trovato inquietante, un film interessante. Si vede che c'è della qualità, si vede che c'è del pensiero. Io non l'ho capito e non faccio niente per provare di capirlo. E grazie Chiara Pizzimenti per averci raccontato Lo zio Bonmi, il film che ha vinto il Festival di Cannes e che arriva nei cinema italiani. Noi a questo punto, come sa chi ci segue abitualmente, apriamo la prima finestra, il primo riflettore sul nostro DVD game, che come sempre più spesso accade ormai un Blu-ray game, perché giochiamo con il nuovo formato ad alta definizione. Per tutti i nostri ascoltatori ricordo l'indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it, perché stiamo per chiedervi di indovinare un film e un regista, come abbiamo fatto anche la scorsa settimana. Poi più tardi vi riveleremo chi ha vinto la settimana scorsa, ma intanto cominciate a giocare con questo, che è la clip di un film, di un regista. Noi stiamo giocando in realtà con due film, perché questa è una doppia uscita in Blu-ray di due grandi capolavori, di due grandi film molto significativi di questo regista. Dovete dirci di che film si tratta, quello che sentirete fra poco, e di che regista si tratta. Ascoltiamo. Beh, qui c'è una pompa per i fiori. Oh, come spiritoso! Ora sei socievole, ora sei europeo! Ora sei quello che sei, grazie all'arte e grazie alla natura! Arriva roba buona! Un tono brillante, molto, molto fresco, ma anche con terminologie che rimandano a un passato. Se avete indovinato di che film si tratta e qual è il suo regista, La Rosa Purpurea, @radio24.it per la vostra risposta. Più tardi avremo un altro paio di possibilità. E allora siamo alla terza novità in sala di questo weekend. Il film ha fatto parlare parecchio di sé, più forse per un aspetto così di location, possiamo dire, in questo caso, perché il film è completamente o quasi completamente girato in una bara. Il film si intitola Buried, ovvero sepolto, e noi siamo in collegamento con Boris Sollazzo per parlarne. Ciao Boris. Buongiorno Franco e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dove sei? Non sei, vero, a replicare la location del film in oggetto, giusto? No, anche se potevamo farlo, devo dire. Certo, insomma, sarebbe stata un'idea. Una volta proviamo a fare una trasmissione radiofonica da una bara, cioè non c'è niente di male. Diciamo che io sono in studio e tu provi nella bara, che sei più bravo. Beh, potremmo fare anche il contrario volendo. Comunque, il nostro protagonista, diciamo, del film è in una bara, sì, ma con un telefonino, il che chiaramente cambia molto le cose. Raccontaci un po' cosa succede in questo film. Allora, guarda, inizierò con un gioco di parole per far capire. Si può girare un thriller in 2 metri per 1 in una bara? Sì. Lo si può fare senza barare? Sì. Ce l'ha dimostrato Rodrigo Cortés, ma ce l'ha dimostrato soprattutto Chris Sporling, lo sceneggiatore che faceva girare questo script per Hollywood da molto tempo e nessuno credeva a questo progetto. È arrivato Rodrigo Cortés, regista spagnolo, che aveva già girato Concursante in Italia, visto solo Europa Cinema, film geniale che non è stato distribuito da noi, e dice: accetto la scommessa. Ha accettato la scommessa, non ha barato e ci ha regalato un thriller che per 94 minuti ci lascia senza fiato, un po' perché ci sentiamo soffocati, anche chi non è claustrofobico respira a fatica, un po' perché davvero, nonostante Ryan Reynolds, bravissimo, si possa muoversi appena, abbia solo un telefono per raccontarci tutto quello che è successo, come è successo, per dare un sottotesto politico molto forte, appunto, sembra poi un film d'azione, cinematograficamente parlando, ci riesce con battute geniali, con una burocrazia americana che è più letale di Al-Qaeda, con un finale straordinario, un film che ha fatto impazzire il Sundance e tanti altri festival fino a San Sebastian e che davvero toglie il fiato. E quindi è anche l'aria in un certo senso. Adesso andiamo allora a riepilogare, a vivere insieme le suggestioni di questo film in un breve montaggio dal trailer. Sentiamo. Sono rinchiuso in una cassa, sepolto. Dovete aiutarmi, non riesco a respirare. Come ci è finito in una cassa? Non lo so, sono stato colpito alla testa e sono svenuto, è l'ultima cosa che ricordo. Servono 5 milioni di dollari o mi lasceranno morire qui. Ok, signor Corroy, adesso Aspetti, come conosce il mio nome? Che sta succedendo? Dove sono i soldi? Mi serve più tempo, la prego. Fatemi uscire, mi farò avere i soldi, lo prometto. Insomma, avete capito che dietro tutta questa storia c'è una scommessa, c'è questo povero uomo che si sveglia in questa bara di legno grezzo solo con il suo telefonino, insomma, è l'oggetto di una sadica, potremmo dire, scommessa. Dicevi, Boris, grandissima prova di Ryan Reynolds che fra poco ascoltiamo, è una di quelle prove che potrebbero anche portarlo in zona Oscar? Credo proprio di sì, perché è vero che forse il cinema è troppo indipendente ed è troppo lontano geograficamente da Hollywood questo film, però è anche vero che Reynolds, che fino adesso aveva dimostrato un po' di talento ma anche molta indolenza tipica del cinema indipendente americano, qui si impegna tantissimo, tanto che forse il doppiaggio italiano lo penalizza. Lui modula la voce, si scortica la pelle cercando di muoversi in questa bara. Ricordiamo che ne sono state usate 7 diverse per permettere i movimenti di macchina che sono straordinari, sembra un western con campi lunghi in certi momenti. Io ci credo, Ryan Reynolds potrebbe avere il salto di qualità dal film di Rodrigo Cortés. E allora andiamo ad ascoltare Ryan Reynolds proprio raccontarci cosa significa per un attore lavorare in una bara. It sounds like it would be sort of on paper, it sounds like it would be easy, you know, shoot a movie in a coffin, how hard is that? Sulla carta sembrerebbe facile girare un film in una bara, ma è davvero l'unico posto in cui abbiamo girato, e se si pensa che quella è stata l'unica location con un'unica persona, è stato qualcosa di unico, e penso che sia questo che fa dire a tutti: oh mio Dio, se io fossi in quella situazione, come reagirei? Impazzirei? Diventerei isterico? Riuscirei a trovare una via d'uscita? Il copione che ha scritto Chris Parling è fantastico. Lui ha creato una sorta di grande mappa per noi per trovare un range di emozioni del ragazzo protagonista. Credo che la sfida più grande durante le riprese sia stata affrontare il sentimento di solitudine, il sentirmi così solo, perché interpreto un ragazzo che è sepolto vivo in una bara in un luogo dove non sono mai stato e la maggior parte della gente non parla inglese come prima lingua. E per questo ho provato un incredibile senso di solitudine, che è stato snervante, ma allo stesso tempo utile. E allora, questo era Ryan Reynolds. Boris, la classifica degli incassi del fine settimana scorso vede Benvenuti al Sud, che ha preso altri quasi 5 milioni nel weekend ed è arrivato a 11 a domenica scorsa. Sta quasi arrivando ai 20 milioni di incasso che fece l'originale in Francia. Quindi, evidentemente, remake che funziona non si cambia. Secondo posto per Step Up, che ha sempre il suo pubblico. Terzo, lieve discesa per Inception, che è arrivato però a 8 milioni di incasso globale. Poi via via gli altri, Innocenti Bugie e The Town, film che sono usciti il fine settimana scorso. Ti chiedo, fulminio, 20 secondi per dirci, secondo te Buried è un film anche da cassetta, è un film anche da classifica? Guarda, è lo stesso segreto di Benvenuti al Sud, deve lavorare il passaparola, a mio parere lo farà perché già se ne parla, sento molti che aspettano questo film, quindi credo che chiaramente non saranno quelli i risultati che hai appena detto, ma credo che saranno risultati molto buoni per la Moviemax. Grazie Boris, a risentirci. A presto. Le note della colonna sonora di Gorbaciov, il quarto e ultimo film, nuovo film di cui vogliamo occuparci in questo fine settimana al cinema. Marino Pacileo è il protagonista, il personaggio principale. È un oscuro e cupo ragioniere di galera, così viene definito. Un uomo senza qualità, passo veloce, aria da guappo, in fila di corsa ogni mattina ai gradini del carcere di Poggio Reale, si barrica dietro il suo sportello e ritira i soldi che le mogli e i parenti dei detenuti portano ai loro cari dietro le sbarre. Marino Pacileo porta sulla fronte una macchia cutanea, scura, quella che comunemente viene definita una voglia, e per questo nel giro tutti lo chiamano Gorbaciov. Già, nel giro, il giro dei prestiti a usura, del gioco d'azzardo, perché Gorbaciov, il ragioniere di galera, fa la cresta sui soldi che ritira allo sportello e la sera, nel retro di un ristorante cinese, se li gioca a poker a migliaia di euro a mano. Vede? Uno, due e tre re, con due dieci. Non ti lamentare, Gorbaciov, che l'altra volta hai vinto tu, eh? 1500 euro, Pacile. Ma quanto pigli un ragioniere di galera? Un'altra mano, no? A proposito dell'altra volta, ma com'è che l'assegno mio l'ha cambiato in cinese? Tanto che mi piace questo posto. E a te che ti piace, Gorbaciov? Insomma, come avete sentito, è lì, nel retro di quel ristorante cinese, che Gorbaciov conosce l'amore. La ragazza cinese, figlia del gestore del ristorante, anche lei vive in una prigione, quella che la separa dalla possibilità di una vita normale. Bella, timida e con tanta voglia di uscire da quella prigione, di rompere la gabbia. La ragazza vede nelle attenzioni dell'attempato Gorbaciov una via d'uscita e si concede al suo sogno di fuga. Ma è l'amore che farà deragliare la vita di Gorbaciov. Una storia disperata, quella raccontata da Stefano Incerti. Gorbaciov e la sua giovane innamorata sono in fondo molto simili. Entrambi hanno una vita segnata e sbattono contro l'impossibilità di cambiarla. Un film che si regge sulla prova d'attore di Tony Servillo, che pesca qua e là nel suo vasto repertorio, un po' dal gaga della goldoniana trilogia della villeggiatura teatrale, un po' dall'uomo in crisi delle conseguenze dell'amore. Una prova però un po' sopra le righe, dove l'attore marca i movimenti e anziché contenere il personaggio lo fa esplodere, un po' in controtendenza rispetto al suo carattere e al tono del film. La regia di Stefano Incerti descrive bene il mondo di Gorbaciov, ma non tiene le redini del racconto e veicola lo spettatore verso un finale piuttosto scontato. Mercoledì, prima non li tengo. E allora, questo era Gorbaciov di Stefano Incerti con Tony Servillo nei cinema italiani. Noi a questo punto apriamo la seconda parentesi sul game, sul Blu-ray game di questa settimana, ascoltando la seconda clip di questo film, uno tra i due film che poi daremo ai più bravi e veloci del sabato e della domenica, che ci risponderanno di che film si tratta e di che regista si tratta. Ascoltiamo. Non si fa vincere dalla freccia di Cupido, né dall'assalto di occhi adoranti, né apre il grembo a loro che seduce le sante. Allora ha giurato di voler vivere in castità? Sì, e questa economia è un grave spreco. E allora, se avete indovinato di che film si tratta e di che regista si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, come sempre inserite anche il vostro indirizzo, perché se siete i primi a indovinare vi possiamo spedire immediatamente il Blu-ray di uno di questi film. Ed eccoci allora, abbandonata ed esaurita soprattutto la parte del programma dedicata alle novità al cinema, a focalizzare un attimo l'attenzione sui premi che sono stati da noi annunciati settimana scorsa. Abbiamo parlato, ricorderete, abbiamo avuto anche l'intervista con Mario Lorini, presidente della FICE, abbiamo parlato delle giornate del cinema de sé che si sarebbero svolte a Mantova. E che in effetti si sono svolte a Mantova con tante anteprime di nuovi film di qualità, ma anche con i premi al meglio del 2009, insomma, della stagione che si è conclusa. E fra il meglio del 2009 sono stati premiati in una splendida cornice del Teatro Bibiena di Mantova grandi personaggi del nostro cinema. Per Giorgio Diritti c'è stato il premio per L'uomo che verrà come miglior film d'essè dell'anno, in sequenza poi i montatori, i compositori eccetera, e si è arrivati anche al miglior esordio cinematografico dell'anno come regista. E ovviamente uno a esordio si immagina di trovare un ragazzo di 25-30 anni che abbia fatto il suo primo film. Il suo primo film l'ha fatto con qualche anno in più Rocco Papaleo, Basilicata Coast to Coast. Ciao Rocco, grazie di essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Non facciamo questioni di età, per favore. No, assolutamente, era uno scherzo. Era uno scherzo. Era per dire che tu hai 32-33 anni, insomma. Accidenti. Rocco, insomma, è un premio importante però, perché il tuo film, intanto il premio te l'aveva già dato il pubblico, perché Basilicata Coast to Coast è stato un vero e proprio fenomeno. Io quest'anno in vacanza sono passato dalla Basilicata, non parlavano d'altro sostanzialmente, mi sono trovato anche in una delle piazze nelle quali hai girato il film, ed è proprio un fenomeno che è penetrato prima di tutto nel popolo, lì nella gente della Basilicata, hanno sentito l'orgoglio di appartenenza e poi ha anche incassato dei bei quattrini, insomma, quindi operazione compiuta, possiamo dire, no? Insomma, a dirlo tu, guarda, io devo mantenere un po' un profilo basso e dirti che comunque ovviamente sono molto soddisfatto e non devo guardare ora troppo questa, aggrapparmi troppo a questa fortuna che ha avuto il film, che è andato un po' oltre le aspettative e soprattutto, diciamo, ha fomentato questo rigurgito meridionale, no? Di orgoglio meridionale, e mi fa piacere perché era anche un po' un mio intento, non il primo, ma ovviamente io, il mio obiettivo era fare un film possibilmente divertente, se possibile anche un po' emozionante, però non pensavo di fare una, diciamo, l'elegia della mia regione. Ecco, il tono, a mio modo di vedere, le carte vincenti del tuo film sono state il tono proprio del film e gli attori, perché hai dato un tono di grande ironia che secondo me viene fuori anche da come sei, dal tuo personaggio, e poi gli attori, che hai messo insieme un cast di primissimo livello che ha funzionato perfettamente nei suoi meccanismi. Questa alchimia, no? Da una parte l'ironia dello scritto e di quello che succede e appunto la bravura degli attori, è l'alchimia sulla quale punti anche per il futuro? Cioè, stai già preparando un nuovo film? Sarà ancora una commedia con queste sfumature? Molti mi hanno detto, come mi hai detto tu, e lo apprezzo molto, diciamo, il discorso del tono, no? Perché poi il tono è tutto, o comunque buona parte, quando racconti una storia. Però quel tono lì non è completamente il mio tono, è un tono, diciamo, cumulativo dell'insieme dei toni delle persone che ci hanno lavorato. I grandi attori che citavi, diciamo, che mi fa molto piacere che prendano questa ribalta, perché in fondo loro, ognuno un attore personale come quelli che ho avuto io, portano la loro cifra nella storia che stanno interpretando. Quindi quel tono è venuto tutti insieme. Per rifare lo stesso tono dovrei richiamare gli stessi attori e ricreare quell'ensemble. Invece voglio provare anche altri musicisti, per così dire, no? Che porteranno poi a loro volta la loro cifra e si mischieranno e verrà fuori un nuovo tono. Però ora non voglio fare troppo il filosofo, alla fine cercherò sempre il divertimento, l'ironia, la commedia e quindi di base ci sarà quello, poi aspetto novità. Grazie Rocco, allora insomma ne parleremo quando sarà il momento, quella Rosa Purpurea, un saluto e a risentirci. Grazie mille. E allora lasciamo Rocco Papaleo, insomma, alla scrittura del suo nuovo film, e noi trasferiamoci invece sulle novità americane, come facciamo ogni settimana qui alla Rosa Purpurea, perché c'è il nostro appuntamento con Trailer USA, che ci dà le anteprime, i primi suoni originali dei primi trailer dei nuovi film in America. Allora, un cast che dice Robert De Niro contro Edward Norton. I due attori, tra l'altro, si erano già trovati insieme in un film, in The Score, nel 2001, tra l'altro finché ospitò anche l'ultima performance cinematografica di Marlon Brando. Con loro c'è anche la bellissima Mila Jovovich, che abbiamo visto in Resident Evil, e non solo. Il film è appena uscito negli Stati Uniti, subito il suo primo weekend di programmazione, e si intitola semplicemente Stone, come la pietra. E allora sentiamo tutti i particolari dalla nostra Micaela Bellisario. Sì, eccoci qua. Ciao Franco. Dunque, Stone intreccia, ovviamente in modo pericoloso e violento, tra passione, tradimento e corruzione, le vite di un funzionario carcerario prossimo alla pensione, Robert De Niro, e di un detenuto, Edward Norton, e dimostra in estrema sintesi confini molto sottili che separano un uomo di legge da un criminale. Insomma, il gioco delle parti può capovolgersi da un momento all'altro. Allora, la storia è questa. Jack Mabry, come dicevo, è prossimo alla pensione ed è responsabile del rilascio dei detenuti sulla parola per buona condotta. Gli viene affidato un ultimo compito, ovvero di rivedere i termini di detenzione di Gerald Creason, detto Stone, pietra, un pericoloso piromane che ha nascosto l'omicidio dei suoi nonni, cioè l'ha mascherato con un incendio. In questo passo del trailer sentiamo il primo incontro tra Stone e Jack. Gerald Creason. I prefer Stone. So, like a nickname? That's what my people call me. Can we talk straight? You gonna help me out or what? Just talk, that's all. And then maybe we both get what we want, okay? L'incontro tra i due sarà devastante, sarà soprattutto una specie di partita a scacchi molto violenta, perché tra i due uomini si inserisce la moglie di Stone, Mila Jovovich, Lucetta, che tenterà di sedurre il funzionario, ovvero Robert De Niro, per incastrarlo. Quando si dice, Franco, cherchez la femme, cercate la donna. Ecco, con Lucetta di mezzo, il braccio di ferro tra Stone e Jack diventerà violento, con un finale psicologico al cardiopalma. Sentiamo adesso l'incontro tra Jack e Lucetta fuori dal carcere. La donna gli dice che sta andando a trovare il marito e subito dopo sentiamo la prima telefonata della donna a Jack. Officer Mabry, I'm Stoney's wife. You're here to see your husband? I don't want you to get your hopes up. I just want him home. Jack, who is it? I was just wondering when we could get together. Look, I admire that you love your husband and you want to do what's right for him. I do love my husband. And all I'm asking you is for a chance to help you see him in a different light. E allora, Micaela, ricordiamo che la data italiana di uscita di Stone non è ancora disponibile, ma i suoi attori invece li vedremo prossimamente, perché De Niro ha appena finito di girare il sequel di Ti presento i miei con Ben Stiller, e invece Edward Norton lo vedremo presto al cinema con Leaves of Grass. Quindi insomma c'è campo per i due prima che arrivi in Italia appunto Stone. Grazie Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. Di nuovo insieme alla Rosa Purpure, il nostro rush finale, la parte conclusiva del programma, come sempre dedicata al meglio del cinema da vedere sul piccolo schermo domestico e in televisione e in on video. Allora, cominciamo con la parte TV, come sempre i palinsesti televisivi. Noi analizziamo solamente quelli in chiaro, cioè visibili a tutti, almeno quelli che hanno il digitale terrestre, quindi praticamente ormai tutti, e gratuiti. Queste sono le discriminanti per essere citati dalla Rosa Purpurea. Ebbene, questi palinsesti anche questa settimana hanno delle chicche e noi le abbiamo chieste a Claudio Bartolini. Claudio, ciao, redazione di Film TV, settimanale di cinema e televisione. Cosa ci avete selezionato questa settimana? Ciao Franco e ciao a tutti gli amici di Radio 24. Segnaliamo il passaggio domenica 17 ottobre su Iris alle 21.05, quindi digitale terrestre free, visibile a tutti, Un giorno di ordinaria follia, regia di Joel Schumacher, una tra le sue migliori regie. Joel Schumacher che ci parla di una storia di, appunto, ordinaria follia in notevole anticipo sui tempi, dove mette in scena le sclerosi che attanagliano una società sempre più basata sul take away, sulle dinamiche alla McDonald's, per intenderci, e sempre meno misura d'uomo. Da segnalare la straordinaria interpretazione di un Michael Douglas davvero in splendida forma. E allora, questo per quanto riguarda Un giorno di ordinaria follia, davvero memorabile l'interpretazione di Michael Douglas, che tra l'altro stiamo per rivedere in Wall Street 2, Il denaro non dorme mai, che sta per arrivare nelle sale italiane. Vi ricordo l'appuntamento, Un giorno di ordinaria follia, domenica 17 ottobre su Iris alle 21.05. E invece di tutt'altro segno la seconda proposta. Ecco Franco, la seconda segnalazione riguarda domenica 17 ottobre, 1.55 va in onda Ottobre per la regia di Sergei Mikhailovich Eisenstein. Primo di una serie di appuntamenti che Enrico Ghezzi, all'interno del suo fuori orario, ci regala sul cinema sovietico. La maratona si protrarrà anche nella notte di lunedì 18 ottobre. Questo titolo è di straordinaria importanza per tutta la storia del cinema a livello di montaggio e di grammatica filmica e tratta brevemente della rivoluzione sovietica capeggiata dai bolscevichi di Lenin, che hanno la meglio sui menscevichi e assaltano il palazzo d'inverno. E questo quindi un film storico sotto tutti i profili, non solo per il tema, perché Ottobre e soprattutto Eisenstein è un regista sempre da riscoprire, da rianalizzare. Andiamo quasi al cinema delle origini. Vi ricordo l'appuntamento con Ottobre, domenica 17 ottobre, guarda un po', su Rai 3 all'1.55 di notte, orario da nottambuli o da videoregistratori. Grazie Claudio Bartolini di Film TV. Ciao Franco, a risentirci la prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Siamo alla terza finestra sul Blu-ray Game di questa settimana, ascoltiamo la clip. Ci vorranno almeno un paio di estati prima che sia matura per sposarsi. Alla sua età tante sono già madri felici. Sì, ma poi fanno presto a sciuparsi. Stasera, come ogni anno, do una festa. Nella mia povera casa potrai vedere stanotte belle femmine in fiore da illuminare il firmamento. E allora, se avete indovinato di che film e di che regista si tratta, scriveteci alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo o di un altro film che è in uscita parallela, ma sempre dalla filmografia dello stesso regista. E a proposito di giochi, di soluzioni, noi facciamo il consueto passo indietro di 7 giorni e andiamo a sentire una delle tracce che avevamo seminato. Erano 3 film diversi 7 giorni fa. Sentiamo. Allora, Don Gelè. Sì? Me lo cede il cinema parrocchiale? Per farlo diventare a luce rossa, vada subito fuori dalla mia chiesa. Ma me lo cedo sto cinema, non vedo che ci sta mai nessuno, è sempre vuoto, non c'è manco un cristiano. Ma sarebbe vuoto anche se proiettassero le sue porcate. Vada via, Saocchi Pinti, non si faccia più vedere. E cerchi di stare al largo dalla mia chiesa. Perché? Non sono religioso anch'io? Io voto DC, Democrazia Cristiana. Appunto, io no. Uno straordinario Johnny Dorelli nei panni di un parroco in Dio li fa, poi li accoppia. Era uno dei 3 film che vi avevamo proposto la scorsa settimana. Vi avevamo detto che si trattava di film dell'inizio degli anni Ottanta e che erano più o meno tutti di uno stesso genere. In questo caso i film che vi avevamo proposto sono anche di uno stesso regista, che è il mitico Steno. Gli altri film, tra l'altro, ricordiamo i titoli, Fico d'India e Sballato, Gasato, Completamente Fuso, Renato Pozzetto, Diego Abbatantuono. Avevate sentito questi suoni? C'era da indovinare almeno uno dei 3 titoli e il regista che li accomunava. Tutto questo poi per, diciamo così, inserirli in un loro contesto, cioè l'uscita da parte della 01 di una serie di commedie della Titanus, mitico marchio Titanus, dell'inizio degli anni Ottanta. È un'operazione molto interessante anche per chi ama il revival di un certo tipo di commedia italiana, che ci fa riapprezzare film che, insomma, hanno segnato per molti la gioventù o comunque qualche anno fa, ormai quasi 30 anni fa. I nomi e i cognomi dei vincitori, perché erano 5 le copie a disposizione, sono Stefania Arzini di Arsago Seprio, Sabatino Astolfi di Teramo, Antonella Iacoponi di Cascina, qui potrei sbagliarmi, Pisa, Dario Sperotto di Costa Bissara nel Vicentino e Andrea Cipriani di Padova, che riceveranno una di queste commedie Titanus degli anni Ottanta. Di questa operazione vogliamo parlare col nostro recensore cattivissimo, anche lui, Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, saluto gli amici in ascolto. In sunto io direi che è molto importante l'operazione condotta da 01 sul catalogo Titanus anni 80, perché si tratta per lo più di pubblicazioni inedite, quindi molto importanti per tutti gli appassionati di quel periodo, come giustamente ricordavi tu. Da un'occhiata sui titoli che hai citato prima, direi assolutamente immagini di buona qualità, sorprendono sicuramente i master utilizzati, nonostante l'età delle pellicole il risultato su DVD è quindi veramente notevole, dignitoso l'audio, c'è naturalmente una traccia Dolby Digital due canali, stereofonica o monofonica, comunque perfettamente ascoltabile, e nel caso questi prodotti comunque non hanno alcun extra. Ecco, l'audio appunto delle sale di seconda visione, delle sale di periferia, di quartiere, dei nostri anni migliori. Allora Claudio, andiamo avanti perché ci sono come sempre due recensioni pronte, una affonda veramente le radici nel cinema classico e in un personaggio che è tutto dire, Giulio Cesare, sentiamo. Potrei piangermi l'anima dagli occhi. Qui la mia daga e qui il mio petto nudo. Se sei un vero romano, vibra il colpo. Ti ho negato il danaro, ecco il mio cuore. Spaccalo come hai fatto a Cesare. Perché so che quando più lo odiavi, di più lo amavi di quanto amassi Cassio. Questo film è assolutamente potente, rilettura dell'omonimo testo shakespeariano, ha un taglio più moderno, un cast d'attore assolutamente sublime, tra cui spiccano le performance di Marlon Brando, di John Gielgud e forse soprattutto addirittura quella di James Mason. Da Warner on Video l'uscita al momento solo in DVD, un film offerto nel formato di immagine quadrato, quello originale dell'epoca, un bianco e nero di buona qualità, c'è qualche fotogramma un po' meno solido, doppia traccia italiana inglese monofonica dell'epoca, nessun extra. Viggo Mortensen è invece il protagonista della prossima recensione, del prossimo film di cui vogliamo parlarvi, molto più recente, stagione 2009, si intitola The Road, ascoltiamo. Credo sia ottobre, ma non ne ho la certezza. Sono anni che non ho un calendario. Ogni giorno è più grigio del precedente. Fa freddo. E il freddo aumenta man mano che il mondo lentamente muore. Un'immane catastrofe ha devastato il pianeta, non è dato sapere la motivazione, ciò che è certo è che la civiltà moderna e la natura sono state praticamente spazzate via. La sopravvivenza implica la sopraffazione del più debole, il cannibalismo, molti scelgono la via nel suicidio e in questo scenario assolutamente apocalittico troviamo un uomo assieme a suo figlio che cercano di raggiungere latitudini più miti, un viaggio nella disperazione in fondo al quale forse la fine di ogni cosa o forse una febbile speranza. Difficile rimanere impassibile di fronte a una simile bordata d'angosciante realismo, opera sconvolgente tratta dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy, l'uscita per CD in DVD ma soprattutto Blu-ray con eccellente qualità video, doppia traccia DTS ad alta risoluzione in italiano e in inglese, assolutamente da ascoltare. Il commento del regista sottotitolato in italiano, ma ci sono anche making of e scene tagliate. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, un saluto. E allora ci avviamo a chiudere la nostra puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va alla prossima settimana, come sempre, il sabato alle 18 e la domenica per chi ci ascolta in replica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.